La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. È dimostrato che la radio la sentono le persone più imprevedibili, quindi chissà mai che tra le orecchie che ascoltano la Guardiana del Faro non ce ne sia qualcuna dei dirigenti di Trenitalia, perché io continuamente faccio questo appello e nessuno ci risponde mai. E infatti ne ho già parlato, però visto che Trenitalia insiste nel suo atteggiamento, insisto anch'io. Scendendo dal faro un paio di settimane fa, ho preso dei treni. Ed ecco che ancora una volta si scontra il piacere di prendere il mezzo per me il più bello, il più sognante, il più letterario, specialmente in questa stagione, poi quella corsa fra i campi e la realtà che corre dietro di te, sembra che ti lasci indietro soprattutto te stesso. Ecco, questo piacere si scontra con gli oltraggi sistematici che Trenitalia fa subire ai suoi viaggiatori. Ed è quando la voce dell'altoparlante dice «Vi preghiamo per migliorare il nostro servizio». E di che cosa ci pregano? Di denunciare gli extracomunitari che vendono i panini e si offrono di portare le valigie. Questo delle valigie è servizio che Trenitalia da tempo non si degna di fornire ai suoi viaggiatori neanche con dei miserevoli carrelli. Io ne ho parlato altre volte, ma ogni volta mi offendo come se fosse la prima. Ma come si permettono? Ci tolgono un servizio e poi ci chiedono a noi di prestare servizio come spie. Vogliono che diventiamo i delatori degli unici che si curano un po' di noi, che praticano l'accoglienza che Trenitalia ci nega. Dopo averci derubati del prezzo del biglietto come briganti di passo, dopo averci spinto per forza sui treni ad alta velocità, ci vogliono derubare fino in fondo anche della logica. Cara Trenitalia, ma lo vuoi capire che noi non siamo dalla stessa parte, che non abbiamo gli stessi interessi? Tu sei capace solo di aumentare il prezzo dei biglietti e la velocità. E di distruggere tutte le altre linee che non siano quelle dell'alta velocità. Hai trasformato il mezzo popolare in un mezzo da ricchi, senza lasciare alternative, e ci privi dell'assistenza e poi, secondo te, dovremmo consegnarti quelli che gentilmente alla buona ci ridanno ciò che ci avete tolto. E poi quella formula, per migliorare il nostro servizio, e no, per migliorare il nostro servizio dovete solo migliorare il vostro servizio, brutti avari che non siete altro. E poi quest'ultimo slogan, Trenitalia, la metropolitana d'Italia, sì, appunto, perché ci avete ridotto in cantina come i topi. Da oggi, col vostro aiuto, vorrei aprire un nuovo spazio alla Guardiana del Faro, uno spazio che si chiama l'angolo del Cafone. E io da quassù, dal faro, nel vento di mare, osservo la ferocia degli uccelli tra loro. E non solo nella lotta per la preda, ma qui gli etologi ci potrebbero ammaestrare su questo, la dispettosità gratuita degli uccelli. Gli orrendi colpi di becco, la tenacia di un'antipatia. Nei parchi di città o in campagna sotto gli alberi, se ci fate caso, potrete vedere il bullismo alato. La lotta fra i pappagallini e i corvi. Se vi fermate un momento a guardare, vedrete un uccello che punta un altro, lo infastidisce, lo minaccia e lo costringe ad andarsene dal ramo dove era posato e poi ci si mette lui. Così ci si appoggia proprio come una antipatica signora che ha rubato un posto in autobus e si sistema con le sue chiappone arroganti. Loro invece hanno queste alone arroganti. Io degli uccelli non so niente, però ho avuto un piccolo ripasso del comportamento umano passando per Roma, di recente, il regno della maleducazione orgogliosa di se stessa. C'è quella canzoncina, lassateci passà, semo romani. Beh, dice tutto. Ma su questo torneremo, facendo sicuramente arrabbiare i romani ben educati, che pure ci sono. Ma è un'area della città, e anche chi viene da Trento o da Reggio Calabria o dall'Olanda, dopo un po' si romanisce tutto. Comunque, la maleducazione è diventato un valore, come la prepotenza. Il modello è sempre Fabrizio Corona nell'episodio famoso dell'autostrada, quando c'è lui con questo macchinone che va a 300 km all'ora e c'è un giornalista con la sua utilitaria. Lui lo aggredisce automobilisticamente, quasi lo uccide. Poi, quando il giornalista, mezzo morto di paura, si ferma a un autogrill, vede la macchina parcheggiata e gli bussa al finestrino e dice: "Ma lei mi ha quasi ammazzato." E Corona risponde: "Che cazzo vuoi?" Ecco, questo è un modello di comportamento. Ed è bastato passare una giornata a Roma. Salgo su un autobus e non c'era sopra scritto il numero. C'era a bordo un ometto in divisa della compagnia, con i capelli grigi, una coda di cavallo lunga come si usava a Hollywood 30 anni fa. Io gli chiedo: "Per favore, che numero è questo autobus?" E lui mi guarda dall'alto in basso con una altezzosità ridicola ma assoluta, come un imperatore dall'alto di uno scranno, e dice, e mi risponde: "E lei chi è?" E mi tratta come crede che facciano i capi. Chiaramente uno che si vergogna del suo lavoro e che, come i matti del manicomio, si è messo un tricorno in testa e si finge Napoleone. Poi no, passeggio al parco e qualcuno che corre mi dà uno spintone da dietro e, continuando a correre, mi urla: "Oh, sta attenta a te!" Questa è un po' l'atmosfera che si respira, ma se ne possono raccontare mille. Al bar della stazione mi servono il caffè, mi danno del lei, poi arriva un giovane africano e gli danno del tu. Allora io, con molto garbo, dico alla signorina che ci sta servendo: "Ma scusi, non vorrei essere indiscreta, ma gli date il tu perché è giovane o perché è africano?" E lei gentilmente mi risponde: no, perché è giovane." Poi gira le spalle e dice ad alta voce: "Oh, ma te fai un pacco dei cazzi tuoi." Ecco, questi sono i primi gradini della violenza, che in progressione estrema sono poi quelli che ti ammazzano, che ti passano sopra col SUV, come quel signore che si era preso, signore per modo di dire, quell'assassino che si era preso un parcheggio disabili per un sacco di tempo. Poi il marito di questa signora disabile ha protestato e lui gli è passato sopra col SUV e l'ha ucciso. Oppure un altro automobilista di Milano che, non ricordo per quale futile motivo, ha inseguito un giovane ciclista e anche lì l'ha ucciso con la macchina. Oppure, anche sempre a Milano, il tassista ammazzato di botte perché aveva investito un cane. Ecco, io vorrei proporre questo. Ci telefonate per raccontare qualcosa all'angolo del Cafone, questo nome benevolo che sembra suggerire qualcosa di agreste, mentre qui si tratta della più bieca violenza urbana e del primo gradino della vera prepotenza. Ecco, vorrei che telefonaste all'828 1111, oppure scrivere alla Guardiana del Faro degli atti di cafonaggine subite da voi o anche compiute, non solo le vittime di questa maleducazione, ma anche qualche maleducato può chiamare, perché, come abbiamo detto altre volte, volgarità è essere dalla parte della propria degradazione, e quindi magari c'è il cafone trionfante, quello che gli sembra aver fatto la cosa più bella del mondo. Parlavamo di recente, poi ne parlo ogni tanto, dell'angoscia, di questo senso di mortalità, dell'entrare in libreria e di vedere queste valanghe di libri sempre nuovi, quale scegliere. Sono seducenti, ce n'è per tutti i gusti, come dice il demonio nei racconti di Hoffman a Sant'Antonio, scoprendo sotto il pastrano fiaschette per ogni peccato. E poi magari, meno chiassoso, piccolino, c'è un libro che ti chiama tra gli sfacciati, no? Non vistoso, sommesso, c'è un piccolo Sellerio che spunta fra gli altri. La copertina riproduce il quadro di un autore russo con una fanciulla perplessa che, seduta a un tavolo, osserva dei fiori blu recisi in vaso. Guarda, è come se volesse misurare il tempo della loro durata. Il titolo è La stazione termale. Autrice Ginevra Bompiani. È una persona che conosco. Il mio primo incontro con lei è stato tanti, tanti anni fa. Appena ci siamo viste, ci siamo odiate subito. Lei, una gran signora dell'aristocrazia letteraria, figlia di uno dei più importanti uomini dal punto di vista culturale del Novecento, Valentino Bompiani, fra più ironici, geniali e capaci, fondatore della casa editrice Bompiani, figlia sua e di una madre che le invidiavi a vista. Io, una selvaggia umbra, brutale, come un grizzly, il grande orso delle foreste nordamericane, che arriva a pesare fino a 5 quintali, e più o meno la mia leggerezza doveva essere di quel tipo là. E cosa ci spingeva ad incontrarci? La gelosia. Avevamo un'amica in comune e volevamo vedere cosa colei ci trovava nell'altra. E osservandoci e scrutandoci, nessuna delle due trovò la risposta. Alla fine dell'incontro uscimmo confermate ognuna nel suo pregiudizio. E nei nostri occhi ostili si leggeva la stessa domanda dell'inizio: ma cosa ci troverà in questa? Ma... Poi sono passati molti anni, siamo entrambe molto cambiate e ci siamo ritrovate a ridere e anche a lavorare insieme. Anzi, a dire la verità, ci siamo proprio affezionate prima ancora di riabilitarci completamente l'una con l'altra, così per istinto. Ecco, voglio parlare del libro di Ginevra proprio adesso che l'ho appena letto, che è il momento in cui si è più sinceramente grati. Il momento in cui si è più sinceramente grati prima che qualcos'altro si sovrapponga e finché il rapporto col testo è incontaminato. Il senso è tutto nella citazione che la protagonista Lucia, il libro è corale, ma lei è un po' il centro di tutto, fa dal Cavaliere della Rosa. Vorrei tornare a 6 mesi fa, dice Lucia. Ti ricordi la Marshalline del Cavaliere della Rosa quando dice a Quinquin: il tempo è una strana cosa, non lo avverti nemmeno e poi a un tratto non senti più che lui? Sono a quel tratto, non sento più che lui. La storia si svolge in una stazione termale. Sono 2 coppie di donne, una bambina con la zia e 2 amiche, Lucia e Giuseppina. Questa fragile e indistruttibile Lucia e la sua amica, lo splendido carro armato Giuseppina, che attraversa la vita appoggiandosi a un bastone che è come uno scettro in mano sua, bellissima, padrona del mondo e di tutti gli uomini che ha incontrato, una donna pirata, senza rimpianti e senza paura. Invece Lucia ha avuto un solo uomo che ha venerato e venera, e in questa venerazione celebra la sua totale sconoscenza e lontananza del maschio, la sua estraneità. Come dice il risvolto di copertina, 2 coppie di donne in una stazione termale, le terme sono un centro medico dove si curano le malattie della vanità e ciascuna di queste donne, perfino la bambina, ha il suo conto sospeso con il passare del tempo e la bellezza. In realtà la stazione termale è un apparente paradiso, provvisto del suo elisir di lunga vita, ma nelle sue pieghe si nasconde il piccolo inferno che l'eterna giovinezza ha sempre chiesto in cambio. Fra le 2 coppie si intrecciano in quei pochi giorni tanti fili, componendo tutti i rapporti possibili. Ognuna ha il suo segreto, che la bambina, come un piccolo segugio, inventa e stana. È una novella ragnatela, in cui il femminile sembra trovarsi nel suo luogo proprio, mentre il maschile resta all'esterno, a delimitare un altro territorio, il luogo dei desideri e delle paure, dove fatalmente si dovrà tornare. Così, il protagonista di questo raccontare, un protagonista che avrebbe voglia di definire 700esco, è il segreto con il suo erotismo. È terribile non essere amati, pensa l'amica pensando alla bambina. È terribile non essere primi nell'amore di nessuno. La bambina, così pensa, no, l'altra donna che guarda questa coppia di zia e nipote, la bambina è certamente seconda per la zia. E seconda deve essere per suo padre e sua madre, se no non sarebbe lì, così quieta, così vibrata. E anche la zia è seconda per la bambina. Non si baciano mai loro due. Non si stringono, non si sorridono. La bambina non avrà mai conosciuto quell'amore perverso e forsennato dei bambini troppo amati, di tutti i bambini troppo amati. Lei non sarà mai stata troppo amata, mai almeno dalla persona giusta. Magari c'era una compagna di scuola che l'amava troppo, o magari una nonna ansiosa, ma mai dall'oggetto d'amore, mai da chi l'avrebbe colmata. L'amica vorrebbe dire silenziosamente alla bambina che sa com'è e darle una breve, intensa stretta di calore. Non sarebbe comunque quel calore giusto che riempie i polmoni, che scalda le spalle e i polpacci. Non sarebbe un calore primo. E c'è al telefono da un bar di Scicli Ginevra Pompiani, l'autrice. Ginevra, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci parli del calore primo? Tutti noi credo che sappiamo che cos'è. È quello che la bambina o il bambino si aspetta dalla madre, è quello che poi si aspetta dall'amante o dall'amico del cuore e poi dei figli. È quel calore che ti riempie, che ti colma. E tutti gli altri sono di compagnia, sono molto importanti, ti sostengono, ti tengono in vita, ma non ti colmano. Senti, un'altra cosa che mi è piaciuta è quando dici: questi luoghi di cura, cure magiche di malattie immaginarie, questi ospizi per tagliuzzare i vecchi. Del resto le malattie sono le avventure dei vecchi, Per questo loro piace tanto raccontarli. Infatti ho capito, Ginevra, che se ci si sfugge tra coetanei, a parte che non ci si vuole specchiare nella vecchiaia altrui, è anche perché un incontro con un coetaneo quando si è vecchi diventa uno scambio di cartelle cliniche. Ma perché soprattutto adesso poi che la vita si è così prolungata e quindi uno è costretto a vivere una lunghissima vecchiaia, che vuol dire anche malattia. Le avventure a un certo punto diventano quelle lì, anche perché le malattie sono delle vere avventure, sono delle avventure molto solitarie e che soprattutto la gente non ama ascoltare, però se hai notato ormai i libri e persino i telefilm non parlano quasi d'altro che di malattie. A pagina 68, come se giocassimo insieme il gioco del disamato. È un gioco pieno di pieghe, risvolti, circonvoluzioni, sfide, insidie. Si impara a giocarlo con perizia e la posta è che si perde sempre. Ma dopo c'è un'altra partita. Anche i disamati conquistano la terra, ma gli amati, come Giuseppina, la conquistano in volo. I disamati a nuoto. Però la conquistano. Certo, però a nuoto, che è più faticoso. Oh, senti, qui c'è una cosa che mi ha fatto pensare a Troisi. Sì, me l'ha detto Lucy. Piange e parla da sola, parla della zia e non so che altro. Che pensi? Sarà innamorata? Ci sono tante altre cose che possono far piangere, dice Giuseppina. Non me ne viene in mente nessuna, dice Lucia. E Troisi una volta disse, aveva appena fatto quel film, credevo fosse Amore, invece era un calesse. Dice, noi facciamo finta nella vita di avere altri dispiaceri che non riguardino l'amore. Ma non è mai vero. Anche una persona affetta da una grave malattia, poi in realtà quello che la fa sopportare o non sopportare, piangere o non piangere, è come va l'amore, è come si comporta l'amante. Senti, c'è una frase che va bene per tutti, non per i rapporti d'amore o di parentela, per tutti. Lucia la guarda, guarda la zia che si è seduta ripresa, sollevata e sorpresa, perché la zia è diventata bella e quando una faccia diventa bella non c'è più niente da temere. Quando una faccia diventa bella vuol dire che si sente amata ed è quindi felice. E da una persona amata e felice non c'è da aspettarsi niente di male, no. Certo. Perché sono le passioni tristi che imbruttiscono. E poi, mentre leggevo il tuo libro, come in una battaglia navale mi ha proprio colpito nel centro dei motori. Anch'io credevo di venire qui a non pensare, e invece non faccio che pensare. È strano che una cosa che fanno tutti, una cosa così comune, nessuno ci riesca, dice Emma. Che cosa? Invecchiare. Perché vuol dire riuscire a vivere, accettare quello scherzaccio. È una cosa, non so come se la cavassero gli antichi, però adesso veramente non si sa più come cavarsela, perché non c'è un principio, non è stabilito quando uno è vecchio. È come se la vita si ripetesse all'infinito, le stesse cose, gli amori, le avventure, le figliolanze, tutto quanto si ripete all'infinito. Solo che il motore comincia a cigolare, come quei dischi che fanno... Sì. Ah, senti, poi a un certo punto tu dici che è l'occhio degli altri che ci fa maschio e femmina e che se siamo solo in una stanza, siamo l'uno e l'altro, nell'uno e nell'altro. Siamo un'altra entità che sfugge a questa spietatezza dell'identità, a questo limite. Quando si è soli dentro la propria pelle. Ecco, lì dentro, nella vera solitudine che è dentro la propria pelle, lì non si è né giovani né vecchi, né maschi né femmina, si è l'uno e l'altro. Con una parte sola non è come avere una gamba sola, non si può camminare. È l'altro che ti dà la seconda gamba, e quindi ti fa essere maschio, ti fa essere femmina. Ma se sei da solo devi averli tutti. Ma forse nessuno direbbe la cosa vera. Per prendere una pausa dal passare del tempo, per fare del proprio corpo una cosa nuova, diversa da quel che sembra, più vicina a quel corpo interno che è in ciascuno di noi, il corpo luminoso che il corpo nasconde. Un corpo né maschio né femmina, né vecchio né bambino, né bello né brutto. Il corpo che portiamo segretamente in noi, quel corpo terribilmente immortale, il corpo dell'amore. Ciascuno, ciascuna, come uno scrigno lo custodisce, gli fa scudo, pronto a morire per lui, noi, con la nostra apparenza così mortale. Ecco, si usa in maniera molto impropria la parola narcisista. Appena uno si guarda allo specchio, diciamo, ma quello è un narciso, piano. Non tutti i narcisisti

un'anima sola. Così dice e delirando torna a ricontemplare la figura e con le lacrime turba lo specchio d'acqua che si increspa e la forma si offusca. Le ultime parole che egli pronunciò tornando a guardare ancora una volta nell'acqua furono: «Ah, fanciullo invano amato!» E il luogo gli rinviò altrettante parole, perché c'è Eco nascosta nel bosco che lo guarda. E quando disse «Addio!» anche Eco disse «Addio!» Reclinò il capo stanco sull'erba verde. La morte buia chiuse quegli occhi che ancora ammiravano la forma del loro padrone. Anche dopo, quando fu accolto nella sede infernale, continuava a contemplarsi nell'acqua dello Stige. Limitless sun, dying love, which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Levarono lamenti le naia di sue sorelle, si tagliarono i capelli e li offrirono al fratello. Levarono lamenti le driadi, ed Eco risonando si unì a quel coro di dolore, e già preparavano il rogo e le fiaccole da agitare e il feretro, ma il corpo era scomparso. Al posto del corpo trovarono un fiore, giallo nel mezzo, e tutti intorno petali bianchi. Nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho compiuto 50 anni e abbiamo festeggiato le nozze d'argento. C'erano i figli, i parenti, allegria, commozione. Io amo mio marito. Anche se ci ho messo un po'. Quando ci siamo sposati, io ancora per 7 anni ho avuto una relazione col mio ex, dal quale non riuscivo a staccarmi. Sono nati 2 figli e credo, anche se non ne ho la certezza, che il primo sia figlio del mio amante. Agli occhi identici ai suoi e anche una forma particolare delle orecchie. Ed è proprio il preferito di mio marito. Lentamente mi sono innamorata di mio marito e adesso non posso più fare a meno di lui. Ma fra noi c'è l'ombra di questo segreto e certe volte sento un gran bisogno di confidarmi con lui, di dirgli tutto. Tu dici sempre che i trucchi in amore danno un amore truccato, cioè falso. E io vorrei mettermi in pace la coscienza e finalmente potergli volere bene senza più ostacoli. Mi perdonerà? Non lo so, ma questo segreto mi pesa, mi avvelena la vita. E così la vuoi avvelenare anche a lui? Visto che il segreto ti pesa, hai deciso di scaramentargli addosso questa tonnellata di sincerità. E in più, pensando pure di fare una cosa nobile, una cosa eroica, mentre invece ti prepari ad esercitare uno sfrontato egoismo. Tu hai avuto una grande occasione per essere sincera quando l'hai sposato e potevi avvertirlo che lo avresti fatto becco prima, durante e dopo le nozze. Ma adesso vuoi distruggere tutto, ora che avete costruito un'armonia, ora che gli vuoi bene. Ma gli vuoi bene? Perché è perché gli vuoi bene che gli vuoi dire che suo figlio non è suo figlio, ora che invece è proprio suo figlio, perché la sua è stata una paternità autentica. Per avere la forza di scontare da sola i rimorsi, ci vuole una statura morale. Se non ce l'hai, fattela venire. Fai i conti duramente con te stessa, non far pagare a lui una colpa di cui hai goduto tu sola. Ma senti, la mia rischia di essere una predica noiosa. Facciamo parlare le opere d'arte. C'è un racconto di Michele Mari, in Fantasmagonia, intitolato Piccolo mondo antico, che ti dirà assai meglio di me ciò che sto provando a dirti. Piccolo mondo antico, la Fantasmagonia di Michele Mari, pubblicato da Einaudi. E lui è lì che sta vegliando la moglie morente. «Non toccarmi, lasciami così», disse, appena mi avvicinai al letto. «Come vuoi, cosa posso fare per te? Siediti». Dandogli le spalle, lei parla. Sul comodino, fra i medicinali, c'era il suo romanzo preferito, Piccolo mondo antico. «Ti devo parlare», dice la moglie. E lui: «Ti stanchi, forse non è il caso». «Lo decido io se è il caso. Sono io quella che se ne sta andando e non voglio finire all'inferno. Ci sono cose di cui sono pentita. Sì, mio signore che ascolti dall'alto dei cieli, sono sinceramente pentita. L'ho detto anche a Don Bruno. Dicevo, ci sono cose che devi sapere. Finché non mi sarò confessata con te, avrò sempre questo peso. E il marito: ma io non sono un prete, non devi confessarmi proprio niente. Sì, invece, perché ti ho ingannato, ti ho fatto vivere nell'errore. Qualsiasi cosa stesse per dirmi, sentivo che era molto peggio dell'errore. E il marito: non voglio sapere niente, ti perdono al buio. Invece mi ascolterai, povero imbecille, ascolterai tutto. E ascoltai. Non mi aveva mai amato, mi aveva sposato solo per i miei soldi. Durante il nostro fidanzamento mi aveva tradito con 5 uomini. Dopo le nozze non li aveva più contati. Aveva tenuto a precisare che pressoché tutti scopavano meglio di me e che con me non ricordava orgasmo che non fosse simulato. Anselmo, il mio Anselmuccio, non era figlio mio, ma del suo maestro di salsa e merenghe, l'aitante Lucio. Matilde, invece, era figlia del commendator Ferrarini. Capivo Lucio, ma Ferrarini. Quando le chiesi perché, rispose che proprio il fatto che fosse brutto e grasso le dava il gusto dello sfregio. Continuai ad ascoltare, guardandole le spalle. Le mie promozioni, la mia nomina a sovrintendente, non dipendevano dal mio merito. Per solleticare la vanità di essere la moglie di un uomo importante, era stata letto con tutti quelli che avevano il potere di decidere. Anche la mia vittoria al torneo di scacchi di Neuchâtel non valeva nulla. La notte prima della finale aveva accettato di farsi sodomizzare dal campione russo perché facesse in modo di perdere. Capisco adesso quella sciagurata spinta di pedone in B6. Perché hai voluto parlare? Perché? Adesso la mia vita è rovinata. E la moglie: e non pensi alla mia di vita? A quella eterna? Io voglio andare in paradiso fra gli angeli. Il Signore lo sa che dovevo dirti tutto. Ora è contento della sua pecorella. È anche scritto: egli si rallegra più di un malvagio pentito che di 100 giusti. E rimette a noi i nostri debiti. È cosa buona e giusta. Osanna nell'alto dei cieli. Accogli, mio Signore, cosa giusta. Sì, vedo già la tua luce. Più del dolore, per quanto avevo saputo, mi prostrava il disgusto per quella religione. La religione di Don Rodrigo Morente e di Pribke, povero vecchietto. Il mio eroe rimaneva Don Giovanni, quando dice di no al convitato di pietra. No, che non mi pento. Presi dal comodino Piccolo mondo antico, lo sfogliai avanti e indietro, sospirai. Vedi, cara, il fatto è che anch'io ti devo confessare un segreto. Mosse leggermente la spalla sinistra, come se stesse cercando di girarsi verso di me, ma si trattenne. Il segreto è che io intrattengo certi rapporti con certi esseri spaventosi, esseri che tu non esiteresti a definire diabolici. Ma se oltre a Fogazzaro tu avessi letto anche Tolkien, sapresti che esistono demoni molto più antichi del diavolo, demoni che vengono molto prima dell'umanità, prima di Dio e prima del nostro universo. Si sentirono i primi colpi, lontanissimi, e già l'acqua nel bicchiere aveva incominciato a tremare. Cosa sono questi colpi? Questa è la moglie. Ne sta venendo uno per te, l'ho chiamato io. Ma chi è? Un demone del mondo antico, come quello che trascina Gandalf nell'abisso. Ora i colpi erano boati e facevano tremare le pareti. Perché vedi, amore mio, il mondo antico non è piccolo, è grandissimo. Rispondo a Paolo Ceccarelli, il quale mi ha mandato una graditissima sorpresa, ovvero la poesia che chiude un film che avevo sceneggiato tantissimi anni fa, un film degli anni 70 chiamato Maladolescenza, per la regia di Pier Giuseppe Murgia, che non rivedo da allora, che era una terribile storia tra adolescenti con un sacrificio umano finale. Io non ricordavo proprio che ci fosse questa poesia a chiudere il film e Paolo Ceccarelli me l'ha mandata. Il poeta è Dezgio, è un poeta ungherese, Dezgio Kosciolani, e chiedo scusa a questo poeta morto nel 1936 se non so come si pronuncia. Vuoi essere la mia compagna di gioco? Vuoi sempre, per sempre, giocare? Andare insieme nel buio, con cuore infantile sembrare importante, prendere posto con serietà a capotavola, con nostalgia indossare vecchi vestiti? Dimmi, vuoi giocare a tutto ciò che è vita, all'inverno nevoso e al lunghissimo autunno? Vuoi giocare al serpente, all'aquila,